Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un prodotto, di un cibo molto, molto noto in tutta Italia, molto usato anche. Molto usato a un tempo, io devo dire, un prodotto povero. Oggi forse è diventato qualcosa di diverso, è diventato un qualcosa di ricco perché lo si trova nelle tavole dei migliori ristoranti italiani, ma lo si continua a mangiare anche nelle osterie. Allora proprio questo di cui oggi vorrei parlare, ma il baccalà è un piatto da osteria o da ristorante stellato? Oppure è un piatto universale che si può mangiare a casa, si può mangiare in osteria, si può mangiare in grandi ristoranti? Quindi un piatto diffuso che continua ad avere un successo davvero incredibile, e andremo a capire anche se esistono baccalà di diverse qualità, appunto, e di diverso prezzo, per scoprire perché appunto viene usato in moltissimi posti differenti l'uno dall'altro. Allora cominciamo questo giro discutendo di questo argomento, ricordando il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, per far partecipare a questa nostra così trasmissione anche molti radioascoltatori appassionati, ristoratori o chiunque volesse intervenire per dire la sua sul baccalà. Ma io comincio da Roma e comincio da un ristorante, Agata e Romeo, che da lungo tempo ormai, non dico che hanno sdoganato il baccalà portandolo in un ristorante di grande qualità, però loro addirittura da anni, da molto tempo, hanno un menù tutto baccalà. E allora voglio chiedere ad Agata Parisella: ma è veramente un prodotto straordinario che va bene per tutti il baccalà, Agata? Buongiorno, sì, sicuramente il baccalà è uno dei piatti che non ci ha mai abbandonato, nel senso che quando era l'osteria si faceva il baccalà, certo in un certo modo e una certa qualità, poi con il ristorante e la trattoria che è di mio padre ugualmente, e io ho fatto una ricerca per un baccalà di qualità, e quindi ho continuato la tradizione, sempre a cucinare il baccalà, certo in un modo diverso, alleggerito, presentato in un modo più elegante, però il baccalà è sempre il re dei piatti della cucina romana. Ecco, Agata, lei ha detto giustamente un fatto interessante, appunto passato dalla trattoria paterna quindi al vostro ristorante, quindi diciamo che è un prodotto che si presta ad essere cucinato in maniera popolare o poi anche in maniera ricercata? Allora, prima anticamente era un prodotto popolare, diciamo, però è stato sempre sulla tavola di tutti gli italiani, quindi nelle famiglie era un piatto dove arricchiva sia la polenta che la pasta, o un piatto unico con le patate, quindi è stato sempre diciamo il pesce dei poveri, insomma, perché purtroppo non è che il pesce c'era sempre fresco, quindi si passava su questo tipo di pesce, no? Questo tipo di lavorazione dove si prestava per fare tutto. Bene. Dall'antipasto al secondo, quindi in tutte le maniere si può realizzare i piatti di baccalà. Io ho fatto una ricerca per un baccalà di qualità, quindi giustamente ha un costo maggiore, però ha una resa molto molto buona, e lo presento in un modo completamente diverso, nel senso c'è un percorso dove racchiude tutti i piatti della nostra tradizione romana laziale. Bene, grazie Agata, lei ci ha dato già proprio, come posso dire, il canovaccio di questa trasmissione, dandoci questi due paralleli, appunto dalla trattoria paterna fino al suo ristorante, e il prezzo completamente diverso, modi di cucinare completamente diverso. Bene, abbiamo con noi Marco Boscarato, che fa parte della trattoria dell'Amelia, della famiglia Boscarato, quindi è notissimo, ma è anche però savio di bocca della Dogale Confraternita del baccalà mantecato di Venezia. E velocissimamente, perché poi torneremo, Marco, volevo chiederle, appunto, questa confraternita va in trattoria a festeggiare o va nei ristoranti di qualità? Va sia nelle ottime trattorie che nei ristoranti di qualità, perché il baccalà è effettivamente un ingrediente estremamente versatile, che è ottimo che parte dalla cucina popolare, ma dà moltissime possibilità anche a una cucina ricercata per creare piatti intriganti e molto appetitoso. Bene, rimanga con noi Marco, perché ora passiamo la linea alla regia per sentire, ancora no, non siamo ancora pronti con la viabilità, e quindi voglio sentire Antonio da Bari. Buongiorno Antonio. Ecco, è caduta la linea, non arriva la linea. Bene, torniamo a Marco Boscarato allora. Sì. Marco, volevo chiedere, dunque lei giustamente ha detto che è andata nell'uno e nell'altro posto, benissimo, quindi a festeggiare un po', ma voglio sapere, il baccalà mantecato di Venezia, ovviamente è diverso dal baccalà alla vicentina, ma anche questo è una lunga tradizione? Ha una lunghissima tradizione che risale, secondo alcune ricerche storiche, a metà del 600 e... Comunque, ovviamente, con tutte le varianti che nel corso della storia le ricette subiscono in base agli ingredienti che sono disponibili e via dicendo, per noi è un po' un biglietto da visita della cucina veneziana, che è ricca di grandi piatti, e il baccalà mantecato è uno tra questi sicuramente. Sentiamo Antonio da Bari, un altro radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Buongiorno, sto chiamando da Bari, ma io sono di origine lucane. Allora, noi d'inverno il baccalà, dopo averlo fatto addolcire in acqua, la parte del filetto, cioè vale a dire dove non ci sono le spine, lo facciamo a pezzetti e lo friggiamo in un olio bollente dove precedentemente abbiamo distribuito un po' di peperone secco, che noi facciamo seccare durante l'estate, e questa polvere di peperone viene il baccalà viene immesso velocemente, quindi solo un bollo, e poi si mangia insieme ai peperoni, noi li chiamiamo cruschi, vale a dire croccanti, sempre fritti in questo olio bollente. Bene, quindi vi assicuro che è una cosa veramente squisita. Stocco con crusco, insomma. Grazie Antonio da Bari. Sentiamo Nino dalla provincia di Imperia, un altro radioascoltatore. Buongiorno Nino. Buongiorno Paolini, tutto bene? Sì, bene, bene. Allora, qui da noi in Liguria abbiamo una vecchia tradizione molto antica, che è il brandacuyù. È un baccalà che veniva manteccato dagli uomini, perché era una cosa da uomo, diciamo, veniva messo dentro questi pentoloni e veniva brandito violentemente in mezzo alle gambe. E questo è... quindi da cui deriva il nome. Bene, bene, grazie. Grazie Nino della provincia di Imperia. Bene, ora ricordo il numero verde 800 24 00 24, ma sentiamo un grandissimo esperto di baccalà. Buongiorno a Roberto Ghezzi di Schooner, la società Schooner. Buongiorno Ghezzi. Ciao Davide. Allora Roberto, io volevo chiederti appunto, baccalà da osteria o baccalà da grande ristorante, ma dei baccalà ce ne sono di diverse tipologie, appunto, di diverso prezzo? Direi anche, per dar merito alla tua precedente trasmissione nella quale parlavi di sagre, diciamo che il baccalà è un baccalà da casa, da alta ristorazione, da trattoria e da sagre. Ci sono sagre dove vengono consumati 5 tonnellate di baccalà, dove affluiscono 40-50 mila persone. Questo in Italia? In Italia. Una delle più vecchie è Sant'Omero, nel Teramano, che ha già fatto la sua 30ª edizione. Ce ne sono a Lucca, al Ponte del Diavolo, dove viene solo arrostito. Ieri, per esempio, e oggi, c'è a Ischia la Fiera dello Stoccafisso, con la partecipazione dei produttori norvegesi. Dovevo esserci, ma non ho saputo rinunciare a una cena del baccalà che da tempo ti invito a provare, dal ristorante Il Merlo di Camaiore. Cioè, è veramente, c'è una richiesta e c'è un, diciamo così, un posizionamento sul mercato a tutti i livelli. Mi ci dai i livelli di prezzo? Beh, i livelli di prezzi... Allora, direi di fare una distinzione, i pesci salati e i baccalà. Preciso perché i pesci salati, perché viene venduto purtroppo da alcuni operatori il molva, che è una specie di merluzzo, ma non si può chiamare neanche merluzzo, ma simile, che viene venduto per baccalà, cioè il salato. E ha dei costi intorno ai 9-10 euro al chilo, al pubblico parlo. Sì. Il brosme, che è un pesce salato, che viene salato, addirittura anche essiccato, tipo stoccafisso, ma per non chiamarlo stoccafisso, perché non si può, viene individuato come lo stocco spaccato, perché viene presentato aperto. Diciamo, e poi si passa alla grande famiglia dei cod, dove il gadus morua, che si pesca nell'Oceano Pacifico orientale, è un prodotto di buona qualità e un prezzo che oggi al consumatore nella grossa distribuzione va intorno ai 16-17 euro. Bene, grazie Roberto, rimani con noi che continuiamo con Giulio da Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Giulio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Praticamente anche io, come l'ascoltatore precedente, gradirei fare un chiarimento su quello che significa il baccalà. Il baccalà che viene commercializzato al nord del Veneto praticamente non è baccalà. Sì, è stoccafisso, no? Sì, perché... viene venduto come baccalà. Con il nome di baccalà. Sì, esattamente, in Veneto, e lo volevo già precisare, quello che è baccalà in realtà è stoccafisso. Benissimo. Praticamente la differenza tra lo stoccafisso ed il baccalà è che lo stoccafisso è un pesce essiccato, un merluzzo essiccato. Il baccalà è un merluzzo salato, quindi questa è la grossa differenza. Sì. Il merluzzo salato, ce ne sono due tipi di come grossa distribuzione, uno salato ed essiccato e uno salato e lasciato morbido. Da Napoli in giù si mangia il baccalà salato morbido, da Napoli in su si mangia il baccalà salato ed essiccato e nel Veneto quello che chiamano baccalà è stoccafisso, molto simile. Bene, grazie Giulio da Napoli. Sentiamo allora, abbiamo con noi Franco Favaretto. Franco Favaretto della trattoria Baccalà Divino di Mestre, è sicuramente molto ma molto conosciuto come ristoratore e come vate del baccalà. Allora io voglio chiedere a Favaretto, ovviamente siamo in Veneto e quindi il baccalà è stoccafisso, quindi l'abbiamo già chiarito, lo chiariamo ancora una volta, e voglio chiedere a Franco Favaretto se il baccalà in Veneto, chiamiamolo così, è un piatto da osteria o un piatto da grande ristorante. Buongiorno Franco. Bene, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Diciamo che come si fa a definire se è da osteria o da alto ristorante? Ormai lo fa all'alto ristorante e si è alla trattoria. L'importante è usare un pesce, appunto, come sento nella trasmissione, di qualità. Perché di qualità? Perché ci sono 22 selezionature di stoccafisso. Quindi ce n'è per tutti i tipi. Io dico, usiamo la qualità migliore proprio per farla in insalata, perché lì non c'è bravura di cuoco, ma c'è alta qualità. Mentre dico, se poi si aggiunge pomodoro, capperi, acciughe, insomma, si può usare un prodotto, non diciamo che non sia di qualità, però una seconda, ecco, che comunque è sempre pur buono, perché in Italia arriva solo il prodotto di alta qualità. Bene, grazie Franco, rimanga con noi, sentiamo Carlo da Venezia, da Vicenza. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Volevo intervenire perché da buon vicentino naturalmente sono cresciuto a baccalà e polenta. Giustamente avete fatto una distinzione tra il baccalà, che nel Veneto si intende come stoccafisso, però non è stata detta una cosa che va sempre e comunque scritto con una C sola. Sì, certo, è vero. È una distinzione fondamentale tra appunto il baccalà alla vicentina e altri baccalà che ci possono essere in Italia. Io una ricetta da buon vicentino, in cui piatto base come la polenta sono i bigoli, spesso e volentieri con gli avanzi del baccalà alla vicentina si condiscono i bigoli. E viene fuori un piatto straordinario, magari improvvisato o magari all'ultima ora, proprio perché il baccalà spesso si mangia anche nelle case, ho sentito parlare di trattorie o altri alti ristoranti. In realtà il baccalà alla vicentina si mangia comunemente in giro per le case. Questa è una cosa fondamentale per non innalzare o sminuire un prodotto che ha fatto della vicentinità un po'... Beh, devo dire che io l'ho mangiato anche al ristorante il baccalà alla Vicentina con una cisolo, quindi sicuramente a Vicenza ci sono due o tre ristoranti che fanno un ottimo baccalà alla Vicentina. In proposito, voglio ricordare che il baccalà alla Vicentina è tra i cinque alimenti tradizionali più rappresentativi dell'Italia, dati da un European Food Information Research Network che è finanziato dalla Commissione Europea. Vabbè, siamo uno dei tanti enti. Comunque c'è stato questo riconoscimento assieme al cannoli alla siciliana, il castagnaccio toscano, la pizza napoletana margherita e il brasato al barolo piemontese. Insomma, sono stati accontentati un po' tutte le regioni d'Italia. Voglio tornare un secondo a Franco Favaretto. Favaretto, nella sua trattoria c'è scritto baccalà di vino con una cisola o con due? No, io sono a Venezia e quindi è con due. Ecco, volevo proprio introdurre questo fatto. No, ma le garantisco che sì, io faccio la Vicentina, addirittura la provincia di Vicenza, San Drigo, cioè l'altra confraternita, io faccio parte del Mantecato, lì c'è la Vicentina, ma si mangia altro che al ristorante la Vicentina. Ma soprattutto la mia grande soddisfazione, che ormai è da 8 anni che faccio questo menù di degustazione, io lo faccio in 20 maniere, ho un pubblico assolutamente giovane. Quindi i giovani amano il baccalà? I primi tempi ho fatto fatica, però dopo un po' alla volta devo dire che costa clientela dai 20-35 vengono queste coppie incredibilmente a mangiare il menù di degustazione di baccalà. Qual è mia grande soddisfazione. Qual è il piatto più richiesto? Ma insomma, io sono tra i fondatori della confraternita del Mantecato, quindi io il Mantecato lo faccio in 3 versioni, però devo dire che io alterno i piatti sia stoccafisso che baccalà salato. E vedo che anche il salato, anche se non è conosciuto qua nella nostra provincia, è molto gradito, specialmente in carpaccio o fritto. Bene, io ricordo il numero verde 800 24 00 24. Antonio dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno. Sì, Antonio. Buongiorno Davide, visto che all'esperto volevo chiedere di un baccalà merluzzo che mi hanno portato dalla Svezia e mi hanno detto che viene messo a bagno per diversi giorni nella soda caustica. Addirittura. E poi viene spurgato e diventa molto gelatinoso, lo mangiano con diverse salse. Ecco, volevo chiedere al suo esperto qualche delucidazione su questo tipo di pesce, ecco. Bene, sentiamo Roberto Ghezzi allora. Ma diciamo che più che soda probabilmente è calce idrata o mischiata a carbonato, ed è un metodo di disidratazione che viene usato anche in alcune zone per la trippa d'Italia. Per la trippa veniva usato anche per la trippa un tempo. E un tempo veniva usato anche per la trippa di vitello. Certo. È un modo per sbiancare e far crescere e ammorbidire la struttura del prodotto che viene trattato, ma credo che comunque quella strada o quel processo non valorizzi la natura del baccalà, anzi in qualche modo gli dà quel sapore di uovo che una volta, anche se ben sciacquato, gli rimane, e gli amanti dello stoccafisso non lo amano. Ecco Roberto, ci puoi rispondere sull'anisakis, che è questo micidiale, diciamo, animaletto che può anche uccidere, che si trova nel pesce crudo? Nel baccalà non, cioè il baccalà una volta trattato col sale sicuramente, oppure anche essiccato, credo che non ci siano più questi pericoli. Beh, qui bisognerebbe perderci un minuto, se me lo dai, per capire bene perché c'è e come si trasmette e come l'uomo può divenire ospite accidentale di questo. Se può essere sintetico, sì, perché ho molte telefonate. Allora, in sintesi molto ristretta, i mammiferi marini espellono le uova non fecondate. Le uova non fecondate all'interno si formano delle larve. Queste larve si sviluppano e, uscendo da queste uova, vengono mangiate da crostacei in genere, i quali vengono mangiati da altri pesci e così via. Per cui c'è in tutta la filiera del pesce, questo è un parassita che è onnipresente. Il sale non è sufficiente per inibire l'azione dell'anisakis. I metodi per inibire l'anisakis possono essere Innanzitutto la cottura, se il pesce, i pesci in genere hanno, vengono cotti al di sopra dei 60 gradi, l'anisakis viene inibito. Oppure al di sotto dei 24? Eh? Al di sotto dei 24, col freddo? O congelati, sì, al di sotto del 24, sì, o altrimenti c'è quella tecnologia nuova che tu, della quale tu sai benissimo quanto io sono innamorato, che permette di trattare il pesce fresco, non congelato, trattarlo all'alta pressione, mangiarlo crudo, e la pressione di 6.000 atmosfere non modifica la struttura chimica né organolettica del prodotto e inibisce invece la misura. Grazie Roberto di questa splendida spiegazione così chiara. Grazie Roberto Ghizzi di Schooner, che è un grande esperto, appunto, distributore, importatore di pesci, diciamo, dal baccalà al tonno alle acciughe. Grazie. Ora io passo a un grande chef, perché appunto vorrei parlare di alta cucina rispetto al baccalà, ed è Oliver Glowick. Oliver Glowick fino a un mese e mezzo fa era, diciamo, chef in un grande ristorante di Capri, il Capri Palace, è un 2 stelle, e da pochissimo tempo si è trasferito a Montalcino, al Poggio Antico, al ristorante dell'azienda vinicola Poggio Antico di Montalcino, appunto. E io voglio chiedere a lui, visto che diciamo Capri aveva sul menù addirittura 2 piatti a base di baccalà, e se continuerà a usare il baccalà anche a Montalcino. Buongiorno Oliver. Buongiorno Davide. Buongiorno. Sì, sicuramente continuo a usare il baccalà, perché il baccalà mi piace molto come materia prima. Ci sono tantissime possibilità di cucinarlo, ci sono anche diversi pezzi di usare in cucina, tipo la trippa, tipo le guance, oppure poi il puro filetto. Quindi tu facevi addirittura una trilogia di baccalà, se ben ricordo. Giusto, sì, a Capri facevo una trilogia di baccalà, anche in diverse cotture, in crosta di pane o in una frittella, e poi anche con la pancetta. Quindi ha una utilità enorme nella grande cucina il baccalà, per essere utilizzato e essere servito. Certo, il baccalà si può utilizzare in tanti modi, in tantissimi modi, addirittura anche crudo. Bene, vediamo se piacerà ai toscani, ma rimani con noi. Sentiamo Danilo dalla provincia di Torino, un radioascoltatore. Pronto? Sì, pronto Danilo. Ah, buongiorno, la ringrazio di avermi chiamato. Niente, io volevo portare il mio contributo, perché quella è la zona, io abito in provincia di Torino, ma c'è una zona del Cuneese, a San Chiaffredo, una zona in cui ci sono emigrati tempi, anni dietro, parecchi veneti, in cui viene fatto il baccalà alla parigina. E cioè, come? Pronto? Sì, com'è sto baccalà alla parigina? Cioè praticamente viene fatto l'estate il baccalà e viene cucinato con le lumache. È una zona vicino a Cherasco, sì, non so se vi ha sentito, una zona tipica delle lumache, sì, e diverse feste paesane, però in diversi posti fanno questo baccalà che direi squisito, perlomeno a chi piacciono le lumache. Senta, ma cosa c'entra la parigina? Perché c'è una ricetta parigina? Viene chiamata la parigina perché il discorso delle lumache è collegato. Va bene. Riporta a Parigi, insomma, nome così, esatto, ok, ma non ha niente a che fare con la cucina francese. Bene, abbiamo con noi Linda Cacco dell'Osteria del Baccalà, da Linda di Stra, in provincia di Venezia. Bene Linda, buongiorno, le voglio chiedere, baccalà con una C solo o con 2? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti voi. Beh, io sinceramente ce l'ho con 2 C, però credo che non faccia la differenza. Noi siamo amanti dello stoccafisso, che così erroneamente chiamiamo baccalà, ma comunque o 2 o 1C, qui si mangia tanto baccalà. Quindi da lei, diciamo, tutto il menù è a base di baccalà, perché chiamarla Osteria del Baccalà... Esatto, è un po' penalizzante, diciamo, sotto un punto di vista, perché praticamente io faccio solamente piatti a base di baccalà o aggiungo qualcosa della nostra tradizione, tipo la pasta e fagioli o altre zuppe venete, però parto dall'antipasto dove uso frutta o verdura di stagione, solamente di stagione, primi tipo crespelle, pasticci, tagliolini, bigoli, o tortelli di zucca con il baccalà, di porcini col baccalà, per finire con i miei tipi di baccalà, dal classico mantecato, che io faccio rigorosamente olio, pepe, sale, senza farina e senza latte, e poi con il Vicentina, perché siamo vicini a Vicenza, sempre con pezzi molto grossi del baccalà, il mio baccalà Linda, che è un baccalà che piace, è un gusto nuovo, olive taggiasche, patate, pomodorini. Poi faccio il fritto, fatto sempre dal baccalà secco, questo è molto difficile da fare, e altri baccalà, baccalà a vapore, faccio le polpette di baccalà, altri tipi di baccalà. Insomma, tutto a base di baccalà, e nonostante questo da tanti anni continua a avere sicuramente affluenza, è così, vero Linda? Certo Davide, guardi, io sono cresciuta nella vecchia osteria di campagna, dai nonni, dove si andava a comprare i baccalà e si batteva nei paracari delle strade sterrate. Io vedevo battere questo baccalà nei paracarri e la cosa che mi preme sottolineare è la soddisfazione più grande è quella di uscire dalla sala o leggere il nostro libro delle dediche e dire, e i nostri clienti ci dicono, essere qui è come essere a casa nostra, con i nostri ricordi, con i nostri gusti, con i nostri odori. E questa è la cosa che secondo me è importantissima. Bene, grazie Linda. Sicuramente grazie, gli appassionati dovranno segnarsi questo indirizzo. Sentiamo Ettore da Campobasso. Buongiorno Ettore. Eccomi, buongiorno a tutti. Niente. Ecco, è sparita la voce. Io ho un'ultima battuta con Oliver. Oliver, secondo te qual è la migliore qualità di baccalà, ovvero sia di stoccafisso? Da dove arriva? Ma si parla sicuramente, parliamo dei spagnoli che lo utilizzano tanto, però anche nella zona di Napoli, nella zona di Somma Vesuviano, viene utilizzato penso la maggior parte del baccalà di tutta Italia. Bene, comunque in Toscana ci sono grandi fornitori, quindi dovrai cercare, certo, in Toscana, certo, dei grandi fornitori. Ricordiamo ancora una volta che baccalà per i veneti è lo stoccafisso, quindi questo sia chiaro. Ora sentiamo Gianni dalla provincia di Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno Gianni. Buongiorno Davide e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Volevo porle il problema della polenta. Sì. Parlate sempre di baccalà, ma nessuno mai parla di polenta. No, perché in che senso? Cioè, abbrustolita, sì, o calda? Ah, lei dice per il baccalà? Per servirla col baccalà? Abbrustolita o calda? Bene, lo chiederemo ora a qualche nostro esperto, magari durante questo finale di trasmissione. Ma sentiamo anche Paolo da Roma, un altro radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Complimenti per la trasmissione. Senta, in Francia c'è un piatto molto prelibato che si chiama le dos de cabayot ed è il dorso del merluzzo, una specie di merluzzo che si chiama cabayot. Perché in Italia non usiamo questo dorso di merluzzo? Questo cabayot, beh, ora sentiamo se guardi, abbiamo con noi un grandissimo chef patron di ristorante che è Luciano Zazzeri della Pineta di Marina di Bibbona, che tra l'altro è anche, mi dicono, un grande pescatore. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Lei conosce questo cabayot, questo dorso di merluzzo di cui parlava questo nostro radioascoltatore? Diciamo sì, la parte superiore, il filettone della schiena. Quindi è una parte molto prelibata questa. Sì, sì, sì. Ecco, lei la cucina, Luciano? Sì, sì, sì, sì. Noi, io prendo questo baccalà spagnolo che è particolarmente buono e particolarmente morbido e dissalato lentamente, perciò ecco, si può mangiare anche crudo. Se ne fa diversi usi, noi facciamo il baccalà mantecato, facciamo il baccalà alla livornese, naturalmente. Ecco, il baccalà alla livornese, ce lo racconta com'è il baccalà alla livornese? Io lo faccio leggermente infarinato, fritto in padella e poi ripassato in teglia con un po' di pomodoro, si può aggiungere due capperi, rosmarino, ecco, si può diversificare anche, tanto ormai si cambia tutto, sicché anche questo a volte viene un po' a secondo dei gusti, a secondo anche delle abitudini che abbiamo avuto in casa, anche mia nonna lo faceva così e io lo ripeto così, ecco. Bene, rimanga con noi Luciano, sentiamo, sì, Ettore da Campobasso, un radioascoltatore che è caduto alla linea prima. Buongiorno Ettore. Sì, buongiorno, eccomi qui, saluti a tutti. Niente, volevo così dare il contributo del Molise, che ha una tradizione lunghissima sul baccalà ed è uno dei piatti portanti, diciamo, della cucina molisana. sia da un punto di vista così povero che anche più, come dire, raffinato, insomma. E in particolare il Molise opera, adotta il baccalà, diciamo, quello che raggiunge 3-4 centimetri una volta messo in ammollo, e diciamo, e su questo, diciamo, si fanno 7, 8, anche 10 diverse ricette, insomma, di baccalà. Bene. Grazie Ettore da Campobasso. Bene, ora abbiamo con noi, abbiamo sentito prima un rappresentante della confraternita del baccalà mantecato di Venezia, ma ovviamente per pariteticità devo sentire anche la confraternita del baccalà alla Vicentina nella persona di Antonio Camello. Buongiorno Camello. Buongiorno a lei, caro Davide. Ecco, mi dice una cosa storica, perché voi siete anche degli storici che fate parte di questa confraternita. E da dove nasce, diciamo, questo scambio con baccalà, lo stoccafisso che diventa baccalà come edizione? Intanto volevo anche, se mi permette, anticipare e spiegare un po' il discorso che ho visto prima durante la trasmissione, che parlavate del baccalà con una C o baccalà 2C. Sì. Ecco, il discorso baccalà con una C ce lo siamo inventati noi della confraternita del baccalà della Vicentina per togliere questo enorme inghippo che c'era tra chi veniva a mangiare da noi il baccalà, che poi è lo stoccafisso. Sì, certo. E quindi volevamo tentare con la nostra, anche con la nostra lingua, di togliere una C per anche soprattutto su scritto, per spiegare che il nostro è lo stoccafisso, quindi l'abbiamo scritto in lingua. Ah, ecco, ho capito perché. Sì, e invece questo scambio, perché i veneti appunto usano baccalà in luogo di stoccafisso? Ma questo è una bella domanda. Ci sono dei vari storici che hanno tentato di capire, ma non si sa perché. Noi abbiamo sempre usato da sempre lo stoccafisso, e da quando nel 1431 il Querini è ritornato a Venezia con questi meravigliosi pesci, e non si sa perché, sembra sia un discorso di baccalà, di lingua, di lingua veneta. Per noi è più facile dire baccalà vicentina o baccalà mantecato alla veneziana che non stoccafisso, sembra sia un discorso di lingua. Sentiamo Antonio dalla provincia di Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Buongiorno Davide, assenta, io voglio parlare anch'io del baccalà. Sì. Che mia mamma il baccalà lo teneva a bagno per 3 giorni e 3 notti naturalmente, dopo veniva lessato dal coso che faceva la lessatura, e ci metteva un bel sughetto fatto col pomodoro e con le olive, e ci aveva un sapore squisito. Bene, grazie Antonio di questo ricordo di sua madre. Io voglio chiedere a Zazzeri, ultimamente si parla molto di merluzzo nero, e che viene usato appunto da molti ristoratori italiani, e addirittura un radioascoltatore mi dice di averlo mangiato in Patagonia. Lei, Luciano, lo usa? Ma io no, ancora non ho avuto questa diciamo opportunità, ecco, di provarlo ancora, di cucinarlo. Quindi si dice che sia una qualità veramente eccelsa, dicono. Senz'altro sì, sai, il baccalà secondo me per essere buono deve essere anche, cioè, la qualità, il mare dove viene pescato, cioè la pezzatura, sono tante cose che si può mangiare anche fresco. Mio cugino in Francia mi ricordava che l'ha mangiato pescato e cotto sulla marmitta del motore della barca, e la panna sopra. Senti un po', questa è una cosa molto francese. Benissimo, grazie a Luciano Zazzeri della Pineta Marina di Vibona, che fa dei ravioli di ripieno di baccalà non indifferenti. Bene, sentiamo Cecilia, un'altra radioascoltatrice dalla provincia di Pordenone. Cecilia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire una ricetta che faceva mia suocera, è una ricetta pugliese del Gargano. È velocissima, perché ho solamente 30 secondi. Metteva a mollo il baccalà insieme ai ceci per 2 giorni, in modo tale che i ceci prendessero il sapore del baccalà. E poi cucinava i tagliolini con le tagliatelle, con il baccalà e i ceci. Bene, grazie Cecilia, ringrazio anche Antonio Comello, ricordo della confraternita del baccalà con una C solo alla Vicentina, Luciano Zazzeri, e ringrazio anche in regia Peter Bescapè, in redazione Anna Panizza e Giorgio De Luca. Io vi do appuntamento con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Buona giornata da Davide Paolini.